Eccoci ora con Fabrizio Arcuri per parlare della edizione 12 di Short Theater, lo stato interiore dal 7 al 17 di settembre. Intanto ben ritrovato Fabrizio. Grazie, buon pomeriggio. Allora, per chi ci ascolta e non conoscesse questo fenomeno short, di cosa si tratta? Beh, Short Theater da circa 12 anni è in qualche maniera il festival che nella capitale mette insieme tutte le esperienze più interessanti e più effervescenti della scena contemporanea e le mette in un confronto europeo e ospita naturalmente molte iniziative, spettacoli teatrali ma non solo, danza, performance, musica dal vivo, DJ set e quant'altro costituisca il linguaggio dell'arte contemporanea sostanzialmente. Sì, sì, sì, sì. Fabrizio, come sono strutturate le giornate? Dunque, le giornate sono strutturate in maniera, diciamo, tipica di come si, diciamo, costruisce un festival, per cui dalle 6:30 del pomeriggio circa ci sono una serie di eventi uno via l'altro a cui si può assistere naturalmente consecutivamente, oppure si può scegliere di vedere delle cose e poi nel frattempo si può sostare in questa sorta di cittadella che è la Pelanda, per cui è esattamente proprio come dire, insomma, come se fosse un piccolo quartiere dove si può mangiare, si può bere, si può conversare, si possono appunto vedere performance, installazioni e poi quest'anno in particolare c'è una radio che è attiva dalle 19 fino alle 24, che è proprio Radio Short Theater, si chiama Bad Peace, e che fa dei collegamenti, degli approfondimenti che si può seguire in web. C'è appunto della musica di intrattenimento durante tutto il pomeriggio e la sera, e naturalmente, ovviamente, fulcro fondamentale della manifestazione sono gli spettacoli che si susseguono uno via l'altro, ce ne sono circa 3 o 4 a sera, e che naturalmente hanno, diciamo così, come caratteristica comune quest'anno in particolare quello di contravvenire un po' alle regole tradizionali dello spettacolo, dunque quasi nulla si vedrà da seduti assistendo così ad una storia che viene raccontata, ma tutti in qualche maniera cercheranno di coinvolgere lo spettatore in maniera diversa, naturalmente non sempre in maniera attiva, però insomma sempre tenendo in considerazione il fatto che la scena contemporanea evidentemente tende a costruire un'esperienza per lo spettatore e non una visione, non una narrazione. Il titolo dell'edizione di quest'anno? Il titolo dell'edizione di quest'anno è Lo stato interiore. Sì. E c'è nato da un'esigenza, diciamo così, di così in qualche maniera di esortazione, no? Nel senso che pensiamo che per, diciamo, intervenire in maniera più importante, più profonda nei confronti dello stato esterno, insomma, no? Di quello che poi è lo stato che è composto di tutti noi cittadini, è necessario che noi un po', come dire, rivalutiamo il nostro stato interiore, insomma, quel sistema di regole, comportamenti e modalità con cui normalmente entriamo in relazione con il mondo esterno, e che forse appunto per essere più pronti e più partecipi a intervenire nello stato è necessario che riguardiamo, riformuliamo un po' le nostre convenzioni sostanzialmente, no? Riformuliamo un po' il nostro modo di rapportarci con la realtà, perché è evidente che da un po' di anni siamo entrati in una nuova era e quindi riconoscerla ci permette ovviamente di, come dire, di rapportarci, sì, perché non riconoscerla non impedirà alla nuova era di svilupparsi e di esternarsi così come di fatto è sempre successo, no? Perché ogni periodo storico poi, come dire, ha degli avventi che avvengono appunto malgrado noi, e certo il non riconoscerli non impedirà questi avventi di essere. Senti Fabrizio, come al solito credo ci sarà disponibile, per saperne di più sulla programmazione, sito internet e pagina Facebook. Sì, abbiamo un sito internet che è appunto shorttheater.org e poi la pagina Facebook, dove naturalmente si comunicheranno le cose, diciamo, più estemporanee, perché poi la cosa interessante di Short Theater, che ogni giorno poi succede sempre qualcosa di più che anche a noi sfugge, o che, come dire, che si crea, no? E che quindi verrà subito prontamente comunicata, e naturalmente poi si avranno tutte le informazioni necessarie per partecipare, perché parecchi spettacoli, pur partendo dalla Pelanda, poi non avvengono in Pelanda, insomma si va un po' in giro per la città, si va in altri spazi, si va alla Biblioteca Vaticeliana, si va al Teatro India, e anzi stasera stessa inizia una piccola anteprima proprio all'Istituto Culturale Spagnolo con il Conde de Torrefiel. Insomma, diciamo che ogni giorno ci sono tantissime attività, ed è bene, insomma, appunto consultare sito e pagina Facebook per capire come usufruirne al meglio. Fabrizio, un abbraccio, un in bocca al lupo, e a risentirci presto. Grazie a voi e a presto. Ciao.